Riprendiamoci lo sport. La riscoperta dello sport popolare in Italia. Torniamo insieme nell'inchiesta sulla riscoperta dello sport popolare e dopo un inquadramento storico cominciamo questa seconda parte con una domanda. Che cos'è lo sport popolare contemporaneo? La prima risposta ci arriva da Vincenzo Manco, presidente nazionale della WISP. Lo sport popolare oggi in Italia è lo sport per tutti, lo sport di cittadinanza, lo sport sociale, ecco, vengono utilizzate spesso diverse accezioni, ma stiamo parlando di tutta quella fascia della popolazione che di fatto esercita un'attività fisica, un'attività motoria e che non necessariamente tutta questa massa di gente che rispetto ai tesserati cosiddetti delle federazioni sportive italiane rappresentano invece la maggioranza, i numeri più alti della pratica sportiva e motoria del nostro paese. La WISP modifica il proprio acronimo facendo un'operazione fortemente culturale negli anni 90, esattamente nel congresso del 1990 recepisce ciò che stava accadendo in Europa e quindi trasferisce in Italia il concetto dello sport per tutti, dello sport for all, ovvero del diritto di tutti a sentirsi, diciamo, cittadino sportivo senza necessariamente essere un campione, ma anzi mettere al centro non più la prestazione, la medaglia, il trofeo, la conquista, ecco, no? Pur legittima comunque, voglio dire, attraverso l'investimento sul talento di quello che poteva essere la grande prestazione, bensì il fatto di potersi muovere per uno stato di salute, di benessere individuale e collettivo, quindi per sentirsi comunque un cittadino a pieno titolo, con una pratica inclusiva, con una pratica che poi intreccia trasversalmente tutte quelle che sono, se vogliamo, le politiche pubbliche poi di un paese, quindi l'inclusione sociale, l'integrazione multiculturale, gli elementi di sostenibilità ambientale. Tutto questo è lo sport popolare, tutto questo è ancora oggi lo sport per tutti. Non solo e non esclusivamente, anzi per niente, la necessità di muoversi per conquistare un trofeo, ma mettere al centro la persona con le proprie abilità e con le diverse disabilità che ognuno di noi può avere o manifestare di fronte alla pratica sportiva. Il concetto dello sport per tutti, dunque, è alla base dell'attività degli enti di promozione sportiva. Le parole di Serafino D'Onofrio, presidente dell'AIKS di Bologna. Lo sport è il concetto di sport per tutti, è uno sport che non seleziona le persone. Devo dire che in questo ci differenziamo un po' dalle federazioni sportive del CONI per questa cosa. Il nostro, ma anche gli altri enti di promozione sportiva, di fatto fanno fare sport a tutti. A noi non interessa il campione, se arriva arriva. A noi interessa che ci sia un'adesione ampia alle nostre attività e che quindi la pratica sportiva, il vivere in salute siano cose che raggiungono il massimo numero di cittadini. L'anno scorso col Comitato Regionale dell'AIKS dell'Emilia Romagna abbiamo promosso presso l'archivio storico del comune una mostra di documenti e foto, quella che era la cultura e lo sport ai tempi di Zanardi in città, e sono venute fuori delle cose bellissime perché abbiamo visto proprio come anche nell'attività scolastica, quella sulla quale la giunta Zanardi con l'assessore Longhena aveva puntato il massimo delle sue forze, delle sue risorse, e incominciava a esserci proprio una cura del corpo, l'attività all'aperto, addirittura l'attività all'aperto che continuava non solo nei mesi estivi, anche nei mesi autunnali, che cominciavano a essere mesi già rigidi, i bambini non erano coperti così tanto come ora, ma c'erano proprio stati studi scientifici che favorivano questo tipo di attività all'aperto nelle scuole durante anche i primi mesi autunnali e gli ultimi freddi dell'inverno. Quindi su questo c'è una tradizione sociale di sport a Bologna. Cosa sia oggi lo sport popolare in realtà è ancora al centro di dibattito. Ci sono gli enti di promozione sportiva come WISP ed AIKS che portano avanti il concetto di sport per tutti, ma esistono anche molte realtà nate dal basso in autonomia che, pur partecipando ai tornei delle grandi associazioni, mantengono una propria indipendenza anche per il modo di intendere lo sport. Ad aiutarci a rispondere a questa domanda allora può essere Cristiano Armati, caporedattore di sportpopolare.it. Noi abbiamo molto riflettuto su questa domanda, che non è semplice come si può immaginare. Se da una parte lo sport è il fenomeno popolare per eccellenza perché si caratterizza per una pratica di massa, allo stesso modo noi intendiamo, quando utilizziamo la parola sport popolare, intendiamo tutti quei fenomeni che guardano allo sport per esercitare una volontà di riappropriarsi di qualcosa che oggi non è affatto scontato. Intanto il tempo libero necessario per praticare lo sport, ma anche tutte le strutture, a partire dai campi di calcio per esempio o dalle palestre, a cui in realtà hanno accesso soltanto coloro che possono permettersi di sopportare i costi appunto necessarie per usufruirne. All'incrocio quindi tra pratica di massa e rivendicazione di un diritto si collocano tutti quei fenomeni appunto di sport popolare, palestre, squadre di calcio, fenomeni di aggregazione che cerchiamo in qualche modo di conoscere meglio attraverso il sito sportpopolare.it. Per capire meglio come e perché negli ultimi anni sono fiorite tante realtà sportive popolari è utile fare qualche esempio. Si possono anche affrontare questi discorsi passando dalla teoria alla pratica. Ci sono situazioni di sport popolare che nascono proprio a partire da un problema concreto. Cito soltanto due esempi perché potrebbero essere tantissimi. Esiste in pieno centro di Padova un campo, un piccolo stadio abbandonato da tantissimi anni, ma che in qualche modo veniva utilizzato dai bambini di questo quartiere per andare a giocare e insomma da altri per praticare attività all'aria aperta. Nel momento in cui si è voluto trasformare questo piccolo fazzoletto verde in un parcheggio, il quartiere ha reagito e praticamente si è andato a riprendere questo spazio fondando una squadra di calcio, si chiama Quadrato Meticcio, quindi è una squadra che gioca regolarmente con anche tante categorie a partire dai più piccoli e che ha preso vita a partire dalla necessità di riappropriarsi di qualcosa che veniva sottratto al quartiere. Un esempio completamente differente ma unito da un filo rosso analogo, il Bruzium Cosenza, una squadra molto molto interessante, tra le più blasonate per quanto riguarda lo sport popolare, ha preso vita a partire da tutta una serie di provvedimenti repressivi che, dal discorso sulla tessera del tifoso fino a quello sui DASPO, impedivano praticamente a molte persone di continuare a seguire la squadra, come dire, di calcio mainstream, finché in qualche modo, ecco, qualcuno si è anche stufato di dover stare all'interno di un circo, quello del calcio delle pay TV, quello del calcio che diventa sempre di più un teatro, quello del calcio dei provvedimenti repressivi, degli stadi sempre più costosi, e in qualche modo ha trovato uno spazio diverso per una passione che comunque resta la stessa, quella per lo sport, per l'aggregazione, per il calcio, e così insomma è nata questa squadra. La riappropriazione degli spazi e la loro sottrazione a processi speculativi dunque fa dello sport popolare uno strumento a tutti gli effetti politico, una pratica che, come dimostra questa inchiesta, è in costante crescita. Abbiamo un piacevole problema: ogni lunedì mattina, nel periodo in cui si aprono le competizioni, no? Si iniziano le varie stagioni nelle varie categorie, facciamo sul sito sportpopolare.it la schedina del calcio popolare e quindi riportiamo i risultati che le nostre squadre hanno in terza categoria, in seconda categoria, nei vari campionati in cui sono impegnate. Ecco, abbiamo cominciato, non dico per scherzo, ma insomma anche per fare una ricognizione, e invece abbiamo visto che stiamo sempre a ampliarla questa schedina, per la quale il 13 non basterebbe sicuramente più. Parliamo di calcio, ma non facciamo l'errore di ridurre a questo sport l'universo dello sport popolare, perché invece attivissimo è anche tutto il settore degli sport da combattimento. Per quanto riguarda gli sport di squadra, non si può fare a meno per esempio di parlare del rugby. Una squadra come gli All Reds di Roma ha dato tanto in termini storici proprio allo sport popolare, ma se pensiamo anche a una palestra come la Valerio Verbano, ancora a Roma, al Tufello, ecco, le ragazze della ginnastica artistica stanno ottenendo risultati di assoluto livello. Ascolta bene, ricito, bastardo. Troppo grezzo e però tu, schiavista, mi stai ancora sul cazzo. Non puoi fare di me ciò che vuoi. Bamba che spendi, i soldi che spendi, non mi importa, sto bene in freperri, ma conosco i denti, ah, maledetti, che sono troppo vecchio e rosso, troppo grezzo e troppo grasso, che faccio sempre troppo chiasso, però tu, razzista, mi stai ancora sul cazzo. Sera del tifoso non la faccio. Come sentiremo fra poco dalle parole di Cristiano Armati, lo sport popolare contemporaneo nasce anche in una sorta di chiave antagonista al modello proposto dallo sport mainstream, fatto di business e dei tanti scandali a cui abbiamo assistito. E non c'è dubbio che in un tempo come quello in cui stiamo vivendo, dove in qualche modo lo sport era caduto nelle mani di due categorie, da una parte c'era quella, la definirei, del mecenatismo politico, tipico l'esempio dei vari piccoli palazzinari che in tanti paesi, in tanti quartieri, in qualche modo finanziavano per esempio le squadre di calcio, con anche con l'intento di averne poi un rendiconto in termini elettorali, oppure c'erano e ci sono le imprese semplicemente speculative, imporre tariffe salatissime per esempio alle scuole calcio, no? Dove così i genitori, prima ancora che i bambini, seguono l'illusione di un nuovo Messi, di anche un arricchimento facile, e questa illusione, questo desiderio perlomeno viene venduto molto caro. Lo sport popolare ha scompaginato le carte, dal punto di vista dei valori ha recuperato intanto un discorso di sport, sì, come aggregazione e come rispetto degli avversari, che passa anche attraverso la conoscenza di se stessi, e poi comunque ha offerto un modello sostenibile, e quindi anche quando si tratta di fare le cose sul serio, ecco, scopriamo che a differenza di quello che accade nel settore mainstream, magari le squadre di calcio popolare non hanno i milioni di debiti, non nuoteranno nell'oro, ma non hanno sicuramente i milioni di debiti, e sicuramente non devono, diciamo, dire grazie a nessuno se non al loro entusiasmo, alla loro capacità di auto-organizzarsi. E per quanto riguarda poi i risultati, anche qui c'è un esempio che è famosissimo, parliamo per esempio di un Lenny Bottai e di quello che ha fatto a Livorno comunque nel campo del pugilato, parliamo comunque di un'eccellenza. Ce ne sono anche tanti altri che forse non sono noti e più, ma che dal basso stanno davvero facendo tanto per lo sport, tanto per i quartieri, e stanno ottenendo anche risultati, medaglie, riconoscimenti, atleti che vincono, squadre che convincono. È un modello che da questo punto di vista funziona. Per le tante realtà che stanno nascendo, però, c'è un problema comune. Il principale problema è sempre lo stesso, quello dello spazio. Molto spesso non si dà sport popolare se non si riesce anche a dare vita a un fenomeno di riappropriazione. Un campo sportivo, una palestra, così come oggi una casa, tutto questo non è dato. Oggi non c'è più spazio o c'è sempre meno spazio per tutto ciò che possa essere considerato pubblico, accessibile a tutti, comune. C'è spazio solo per il privato e per la speculazione. Per cui se si vuole veramente in qualche modo di mettere in piedi una possibilità diversa affinché tutti possano accedere allo sport, che può significare la classica partitella fra amici fino a un campionato a livelli anche alti. Qualsiasi siano le intenzioni o le aspettative che ognuno ha nei confronti della pratica sportiva, il principale problema è sempre quello delle strutture in cui diventa possibile poi praticare sport, dal campo di calcio al campo di rugby, alla palestra, a tutto ciò che appunto serve per effettivamente fare veramente sport. Lo sport popolare dunque non si occupa solo di allenare il corpo e dare vita a gare e competizioni, ma usa la pratica sportiva come strumento per un intervento sociale. Una grande realtà come la WISP, ad esempio, prevede politiche in 5 diverse aree, come ci spiega il presidente nazionale Vincenzo Manco. Intanto l'area internazionale delle politiche e relazioni internazionali, che comprendono sia appunto il terreno delle relazioni, laddove la WISP è all'interno di network internazionali, più importante in questa fase che stiamo frequentando è ISCA, che è un network mondiale. Noi tra l'altro siamo stati e continuiamo ad essere leader anche della parte di ISCA Europe, siamo il punto di riferimento europeo di questa grande organizzazione, International Sport and Cultural Association, l'acronimo, una grande organizzazione che promuove cultura sportiva e pratica sportiva di base per la promozione, soprattutto dal punto di vista della prevenzione della salute, della promozione degli stili di vita sani. La cooperazione, abbiamo progetti di cooperazione in diversi paesi del mondo, soprattutto in Medio Oriente, tra Libano e Palestina, in Sahrawi, in alcune zone dell'Africa e anche in Brasile, tra l'altro. Le politiche per la salute e i sani stili di vita, stiamo procedendo ad una serie di protocolli regionali per quanto riguarda i nuovi piani per la prevenzione della salute. Abbiamo le politiche, i riferimenti per le politiche per la parità di genere, e abbiamo fatto delle iniziative. La più importante di recente è quella di aver stipulato un protocollo con 3 università partenopee su cui abbiamo costruito dei percorsi per quanto riguarda gli orientamenti sessuali e contro la violenza sulle donne e contro l'omofobia, e la promozione insieme a alcune senatrici del disegno di legge per la parità di trattamento per quanto riguarda gli atleti professionisti e le atlete professioniste in questo caso. Politiche di inclusione sociale, educative e politiche giovanili racchiuse in un'unica delega, quindi un rapporto con il sistema scolastico, il MIUR, dovremmo riuscire intorno all'autunno a rilanciare con un'azione che abbiamo promosso proprio attraverso i mondiali antirazzisti, di un progetto di educazione alla mondialità da fare nel rapporto con il MIUR, e non ultima le politiche di sostenibilità ambientale, che riguarda l'utilizzo di materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutte le iniziative che la WISP fa, soprattutto nelle grandi manifestazioni, e il nostro impegno su quello che è il terreno della rigenerazione ambientale, l'utilizzo di energie rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. C'erano state danze in riva al lago per brindare al sudore. C'era stato un profumo di menta, di ghiaccio e di liquore, di liquore. E poi Miriam delinquente non si serve da bere all'accento, alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente. Poi maglioni per terra e partite di pallone, una sfida essenziale senza regole e religione. Tra noi bevitori di mojito e fumatori di marijuana, una squadra troppo vanitosa, troppo brasiliana. E quella notte fu mojito. vino una scusa per finire in abbraccio, con le mani unite sotto una cascata di menta e di ghiaccio. E Miriam delinquente non si serve da bere alla gente, alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente. E quella notte fu l'iniziativa della WISP più famosa e che meglio rappresenta lo spirito dello sport popolare è costituita dai mondiali antirazzisti che si svolgono ogni anno a luglio. A darsi appuntamento in Italia da qualche anno a Bosco Albergati di Castelfranco Emilia sono migliaia di atleti ed atleti, tifosi, attivisti e centinaia di squadre che lottano insieme e si misurano con spirito non competitivo sui campi. A spiegarci la nascita dei mondiali antirazzisti è l'ideatore Carlo Balestri. I mondiali nascono fondamentalmente dall'idea di trovare attraverso lo sport uno strumento contro ogni tipo di discriminazione. Questa formula è diventata vincente perché abbiamo reso anche flessibili le stesse regole del torneo di calcio piuttosto che di altri tornei che solitamente facciamo all'interno dei mondiali, e abbassando la competitività per invece favorire il dialogo interculturale, il dialogo tra i generi. Credo che nel corso degli anni siamo diventati una sorta di laboratorio multiculturale, intendendo per culture tutte le culture differenti, modi di vivere differenti e gli stili di vita differenti, per cui una componente anche fondamentale è quella del tifo organizzato, che è sempre stata parte attiva e motore dei mondiali antirazzisti. Era un periodo in cui gli ultras venivano considerati violenti razzisti. Gli immigrati che sbarcavano sulle nostre coste venivano considerati tutti potenziali criminali e vittime comunque invece degli ultras dall'altra parte. Abbiamo pensato di mettere insieme tifoserie anche nemiche contrapposte e comunità di migranti, per cui proprio quello che secondo l'opinione pubblica non poteva stare insieme, da noi è stato insieme senza nessun tipo di problema e ha dato da subito esempio e modalità di grande laboratorio costruttivo, insomma, per cui è diventato un esempio di maturità. Noi siamo sicuramente più tristi nel giocare a calcio, ma più puliti, e questo è una cosa importante rispetto a quello che sta succedendo nel calcio nazionale e nel calcio mondiale, per cui insomma crediamo di poter essere un esempio anche per riformare, rifondare mi piace più dire, il calcio. Oltre al calcio, chiaramente il nostro torneo è misto, per cui sia di generi che di culture, per cui molte squadre sono miste, anzi la maggior parte. Giochiamo senza arbitri, vabbè, abbiamo mille specificità. Poi abbiamo il torneo di basket, il torneo di pallavolo e il tchoukball, una disciplina strana nata negli anni 70 da un insegnante di ginnastica svizzero, è nata appunto per favorire il dialogo tra le squadre che non sono nemiche ma si confrontano all'interno di questo campo. Diciamo che è un misto tra la pallavolo e la pallamano, è un gioco di squadra dove non c'è il contatto, cosa che invece c'è nel rugby, che abbiamo anche quello. Lo scorso luglio i mondiali antirazzisti hanno compiuto 20 anni. Come sono cambiati e che cosa hanno rappresentato? Sono 20 anni di crescita, di cambiamenti, sono 20 anni che hanno attraversato la società italiana, sono 20 anni in cui però i mondiali hanno saputo rinnovarsi, hanno saputo di per sé intercettare anche quelli che erano un po' i bisogni o le esigenze del momento attuale, per cui sono 20 anni in cui noi continuiamo ad avere a che fare con molti ventenni, per cui vuol dire che ci portiamo dietro anche l'esperienza di quelli che venivano alle prime edizioni, ma soprattutto ci portiamo dietro moltissimi giovani che hanno ancora voglia di credere, lottare contro le diseguaglianze e contro le discriminazione attraverso lo sport. Ci siamo rinnovati innanzitutto dando anche più forza alla parte educativa dei mondiali, per cui insistendo molto sulla parte dei bambini, con laboratori per circa 700-800 bambini, che questo mi sembra buon motivo, insomma, anche perché crediamo che lo sport, se adattato con delle regole precise, possa anche metterci dentro dei bei valori. Ci siamo rinnovati anche con il parco delle squadre che partecipano ai mondiali, che quest'anno abbiamo avuto un record assoluto, 184 squadre, e abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché non sapevamo più dove metterle. Ci stiamo rinnovando attraverso, chiaramente, cerchiamo di essere attuali con l'incontro dibattito che facciamo, per cui tocchiamo dei temi sempre importanti, come un tema a noi caro in questo momento qua. Abbiamo portato avanti anche delle campagne durante tutto l'anno, è su quello, sulle tematiche di genere, sulla parità di genere nello sport. Sono proprio anche squadre femminili, oltre come caratteristica dei mondiali esserci più di 100 squadre miste. Un'altra cosa è che chiaramente c'è ogni anno che passa c'è un radicamento maggiore anche sul territorio. Per quanto riguarda l'antirazzismo sul territorio, dopo 20 anni Bologna come si trova? Nell'ultimo periodo c'è stata la Borgonzoni al ballottaggio, una situazione un po' particolare per Bologna. Secondo me il sindaco Merola deve ringraziare i mondiali antirazzisti, perché soprattutto nella parte giovanile c'è ancora un anticorpo bello robusto e costante che ha tenuto e gli ha fatto probabilmente vincere anche al ballottaggio. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. Su campi di terra, sudore e passione, è vivere questa realtà. Mi passi un pallone, ti offro da bere dal 97 insieme agli ultra. L'impegno e la lotta di chi non si arrende, la tocchi con mano e ti porta con sé. Non c'è differenza si vinca o si perda, United we stand. E chi li vive ogni anno passando di qua, sentire il profumo di tante culture risveglia nei cuori la voglia di chi non si arrende, chi griderà. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. È come un'onda ti travolgerà, le tante emozioni che questa esperienza ti dà. La lotta concreta contro ogni razzismo, la condivisione è quell'unità che ci fa sentire ancora più fratelli, uniti dalla stessa voglia e dagli stessi intenti. La gente che ci viene a testa solo un obiettivo, combattere col calcio ogni forma di razzismo. L'inchiesta torna domani. Questa puntata è disponibile in podcast sul sito radiocittafujiko.it. 20 anni di mondiali antirazzisti. 20 years of anti-racist voter. 20 anni di mondiali antirazzista. 20 anni di football, Mike Schaff antirazzista. 20 anni di mondiali antirazzista. 20 anni di mondiali antirazzista. I belong to these ideals, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution. I belong to these ideas, football time, a revolution.